che ti sento. Lo so, ogni tanto. Ti già passi più così. Sei 9:20 adesso. E io stai scendo bene. Me la prima sistema a patronare con la TV. Purtroppo no. Purtroppo no, perché non può uscire, sta rischioso. Dove si è chiuso Fusaro? Era aperto fino a due settimane fa, me ne mi pare. Sì, quello sì. Poi dopo devo essere preso da una cosa dell'altra e purtroppo se ne è per poter uscire e fare dentro fuori, avere la libertà di uno bene, sai? Che cazzo! Sì. Altri 15 giorni di prova ci sono, comunque può essere. Ma quanto pare tutto lo potrà fare, l'aprile, sì, è Pasquetta in galera. Sì, esatto, alla fine. Vediamo che almeno altri 15 giorni, almeno questo, esattamente questo è il secondo giorno. Stavo provando un genitore che hai due, ma non ci sono più frequenti per questa radio qua, per ricezione. Sì, io ce ne so per questo, ma non sto più parlando di nessuno. Aspetta un secondo, due minuti. Oh. a pescare pure più, per forza che ricevi, però non ho più di tanto, capito? La parte HF ce l'hai tappata. E lui con la HF non ce l'ho, questo è un fonte, ma direttamente la città e lo faccio. Dico, guarda, a questo finale che è uno spettacolo, puoi rivedere, no? Una bella musica. E d'accordo, io ho portato a 5 trasmissioni di 150, no, 150 musica. E come dice, è uno spettacolo veramente. Hai fatto bene, bisogna sempre sperimentare comunque. Tanto adesso mio, ci mettiamo le basi e sperimentiamo, oppure poi mettiamo fuoco alla casa. Almeno vengono i pompieri, capite, andiamo a fare qualche cosa. Quello sì. Adesso a posto di disturbare i CB disturbano i 5G, quindi adesso sì che siamo in mezzo alla metà davvero. A me mi hanno installato il ripetitore 5G di fronte a casa, dove c'è l'hotel, tutti i giorni, la 7 disturbata, tutti i giorni, mattina e sera. Più ci sono anche 5-6 canali, la stessa identica cosa. Tutta la palazzina dove sono io ha problemi di ricezione. Il televisore, tranne che Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 li vede bene. Tutti gli altri, tutti quanti, con il difetto del ogni tanto manca il segnale, poi ci sono le strisce verdi, piccoline o larghe, capito? E quindi abbiamo avuto 5G e ce lo teniamo conto adesso. La colpa è anche la nostra. Io ogni tanto mi telefono al capo condomino e mi scrive se sto usando il baracchino. La telefona dice, ma mi ha dato un messaggio, dice, non ma il baracchino lo stai usando? Io ho detto no, sto usando il telefono, sono in videochiamata, ho detto, tanto che non posso fare altro, almeno lì e topparlo, tanto che il baracchino non c'è neanche un cane. Mi ha scritto blu, mi ha scritto, e se tu hai detto cambiati, chiama il tecnico, gli ho detto di fare le misurazioni e si arrangia lui, ho detto cosa avevo di diritto. E basta. Purtroppo ci ho ripetuto di fronte, cosa dovevo fare io a questo? E io ti faccio risposto io a pagare 500 euro, sta fresco già. E anzi, quando si lamenteranno, qualcuno chiameranno, diciamo a quello. Avanti Antonio Riserva. Non chiamavo nessuno perché capito, mica li toccano quei ripetitori, no? e lo sanno che disturbano, disturbano beh, da loro anche detto, una volta installati quei ripetitori, boh, di tutto ci passa. E appunto per quello, no? Non abbiamo voluto, non ce lo teniamo i problemi. E questo è quello lì. Se ce l'ho proprio a 200 metri il ripetitore nemmeno. Figurati. Ma lo sai, i problemi che la 7 la vedo un bel male, la 7 e altri canali. Da quando l'hanno installato, hanno tolto il 1, messo l'altro nuovo, boh, la TV si vede male. E a parte i problemi di salute, capito? Perché i 5G lavorano a poca distanza l'uno dall'altro le antenne. Quindi sono le vogliamo lasciare come i funghi adesso. Installate nei palazzi. Ciao, ma che volevo dire ancora? Secondo, finito il giallo. cambiare il trim della M devi cambiare. Ti ricordi che ero venuto a casa tua e te l'avevo anche letto. In pratica se tu cambi il trim della M vedrai a cash, ha voglia cash, avevo anche quel difetto lì, quando avevo comprato il Saturn, ecco, dalla Vicco. Aveva problemi di trasmissione, a volte non riusciva la M, oppure trasmetteva il corpo, poi se ne scendeva la potenza a zero. Alla fine gli ho cambiato il trim, tutti li ho cambiati, il PWR, la MC, la LC li ho cambiato, al primo corpo ha funzionato, l'ho speso mi sembra 2 euro in pezzi, non di più. E la parete ha funzionato benissimo, non mi ha dato più problemi. Figurati, l'avevo pagato 150 euro per il Saturn Echo. Eia, sono quasi fronte al finale. C'è scritto PWR. Lato c'è scritto AMC e a fianco poi c'è l'ALC. Devi cambiare tutti e tre se vuoi che vada in AM. Che ce li ha menati a me li ha pezzati tutti e tre, noi li avevamo messi, ce li ha fusato, non ti preoccupare, c'era tutti e tre tipo ti batti o no, batti aperto, che cazzo, quello è grande, ti segni il trimmer uno per uno il valore e ti scrive per dire questo è PWR tale, intanto c'è la sigla, c'è del trimmer. L'altro ci scrivi AMC e ci scrivi il valore, l'altro ALC eccetera eccetera, ci scrivi il valore e poi ti fai la fotografia col telefonino come li staccare, così sai come sono piazzati, ti ricordi anzi come sono piazzati, per non sbagliare. Aspetta, ora abbiamo un problema di abbastanza, che cosa volevo dire? Il valore di ogni film è trascritto già nel componente alla fine, non è pulito, non tutti uguali. Esatto, sì. Perfetto, dai. Posso fare un cantantico con il mixer, no, credo che sono abbastanza pratico. Salvatore, taglio, tiratacchio, faccio soltanto. Già sono bravino, già mi sono trovato a fare le salvature. Non sono fortissimo di questo. Proprio così. Proviamo così, dai, faccio un cantantico. Consumano, capito, si forma la rossi, non si forma sopra, non conduce più, capito? Lo so, la gestione è bella, non so perché io ho fatto un equità, lo sai. In pratica ci siamo due apparecchi allo stesso prezzo, quello che hai dato tu e quello che ho comprato io. Figurati. Allora io gli ho detto, no, ha detto, a me l'hai detto nel 80, non mi interessa niente. E allora ho preso il Saturn Echo. Capito? Che questo 80 sono andato a controllare quello che avevo io. In pratica. Ha fatto tutto il giro e aveva dato a quello del 80. Adesso c'era. Quella cosa c'era con il 80, già lo sai, dove è venuto insieme a me, Marino lo sto usando, cioè, l'altro MV più 4, gli ho installato ed è perfetto. Perfetto. 140 è uguale lo stesso. Oramai quelli sono superati, quegli apparecchi, non puoi venire anche per comprarli, perché non sai quanto tempo funzionano, capito? Avanti, Anto. No, non ne ho, no. L'unica cosa che ho è l'antenna per VU e basta. C'ho qualcosa che ho salvata nuova nuova. Non è più di quella roba, c'avevo una volta di... c'avevo la bazooka, l'ho regalata la bazooka, figurati. Poi che antenna c'avevo? L'antenna per la barca, se c'è niente qualcosa, anche quella l'ho regalata a un amico. Cioè, gli ho installato in barca, anche se non ci sta andando, la figura di... ma mai usato quel baracchino, ha girato quel baracchino, gli ho dato. Cioè, l'ha installato in barca, lì non ha mai usato nulla, perché non ci va quasi mai. La volta ogni tanto fa pulizia e poi si torna a casa. E io lo so, non so cosa mi questo caffè di antenna, non per il cazzo l'avevo pagato di 50 euro, figurati. Costano un bel le antenne quelle là, ma già si trovano a me su internet di meno, tipo Boomerang, qualcosa del genere. Non so che saliva una mini Grand Plane, se la puoi installare lì in facciata, non lo so. Solo ti costruisci un bazooka, non ci vuole molto a costruirla. Ci vuole un tubo di plastica, il cavo è 5,50 m quello che c'è all'interno di misura, perché l'avevo tolto la bobina vecchia io e gli ho messo cavo elettrico, perché con la bobina vecchia è affittamente fine che sembrava questo lì, una galgata, se no reggeva 10 watt. Ho preso lo staccato e ho messo il cavo elettrico da 1,5 m, un traino era quell'antenna. Lo so, e l'ho installata io per provarla. Funziona anche dentro qualcosa quelle antenne, me lo sai. Io l'ho installata dentro al circolo che c'è via Torino, a fianco al bagno, appoggiata alla cassa della birra di plastica, e arrivava qua 9,20 Nicco, il fratello di Giuseppe Leoncino. Esatto, sì, c'è così. L'unica cosa, ottenete la boomerang, se riesci a buscartela, che è molto meglio, almeno c'è il radialino e irradia. E Paola usava la boomerang, già lo so. C'è un giorno che non l'ho più vista a casa. Avevo fatto lo stesso, Antonello, whisky. Paola sono me che non la vedeva, siccome la bevevo stesso a Conad, a Quadrato. Poi non l'ho più vista. Evidentemente o si è sposata, ha cambiato zona, cosa ne so. E il principe azzurro, il principe duro l'ha trovato. Allora, primavera la prima sto casa azzurra, me la metto, Gesù. Ah, che faceva prima di lì era, andare sotto casa sua, che risata. Avanti a Torello. Antonello di Rossi. Sparito, A meno che non ti fai un dipolo, mi... Anto, ti costruisci un dipolo. Non ci vuole molto, no? Come se sono, ma... Ti volevo chiedere, ma... pure per la regolazione dei trip, da come l'ho fatto, dopo che avevo spostato. Già lo so, Anto, già lo so. Oh, magari la bomba la buschi me. Niente, so che c'è sempre qualche CB lampada in casa che non la sto neanche usando me. Però quanto ne sa se non hai visto, pieno. Qualsiasi tu non vai, vedi Mantova, piazzate, bomba, di tutto lì, a ciappi. Figurati, io mi chiedo a qualcuno se ce l'ha. Qualche CB che magari c'è un bel tempo che non vediamo, se magari c'è a casa buttata e non lo usa nemmeno. Mi sta dicendo Antonello, dei trim si è spostato tutto. Ehi, mi sta dicendo i trim, l'ho detto. E ti stavo dicendo, allora, dal momento in cui poi a questo trim andranno regolati, no? E dunque su cosa sta la foto, cosa me ne accorgo fra? Come faccio a regolare? Ci vuole uno strumento dopo che sono montato. Per la potenza basta il loss metto, metti, appena lo piazzi il trimmer, giri prima a destra, se vedi che la potenza diminuisce, gira la parte opposta, lo metti a manetta, tanto tira 15 watt con l'apparecchio. Pure l'EC e l'MC invece devi fare una cosa, giri prima da una parte e poi dall'altra, però con un baracchino acceso o con un ricevitore, ti metti un paio di cuffie così ti accorgi che l'audio aumenta. Hai capito? Perché secondo come lo giri ti sparisce la radio, invece girando da un'altra parte si senti l'audio forte, capito, del microfono. Va bene, non c'è problema. Che cazzo sto facendo schiena per una boomerang? Non mi viene mai, non ho più visto più nessuno, ragazzi. TCB, che prima avevo tutti i giorni, non ho più visto nessuno. Chi è che potrebbe avercelo? Ma non che non ce l'ha Fabio Master. Una qualche boomerang. Quello già è a Sassari, su Facebook già c'è. E siamo qua. E via, sei su Facebook. Ogni tanto mi... su WhatsApp mi manda un messaggio, mi manda. L'ho visto un'altra volta, è a Sassari, cioè è a Sassari, però lavoro tutti i giorni a Umbria, capito? Quindi fa Sassari Umbria tutti i giorni. Ma si faceva, perché adesso non può più andarci a Umbria, manco per lavoro. Era, è durato poco. Cosa ridda, l'unica cosa che c'ho è, anzi, che Giovanna c'ha è un... il filtro per lanciare due apparati VHF assieme per ponte radio. Poi c'è due portatili piccolini, Giovanna, e due vecchi di RG213 che trovate in garage. Poi adesso della roba, la discona, che non è neanche tanto grande, lì. Ce l'ho installata io nella sotto la mantova. E poi c'è la direttiva per le V e per le U. Se no fatti l'antenna a canale a pesca, se ti metti di canale a pesca e ti fai la Game Master, su YouTube c'è come costruirla, ci vuole solo cavo elettrico, non ci vuole altro. E cavo d'antenna, puoi metterci l'11-48, oppure non mi ricordo come si chiama l'altro, quello grigio più fine. Lo so, allora boh, cosa vogliamo dirti? L'unica è di poro, allora, se fino a spendere, a meno quello già esce, è come la boomerang. La P10.000, ma vedete qua, a meno che non metti un radiale, allora sì, la P10.000, dove si è trovato un basamento di coso? Di Grand Prix, se dovessi trovare, e installi la P10.000 con due radiali, come l'ho fatto io. E ci va bene. E ho cancellato il tubo io. Anzi, io addirittura ci avevo installato la tubo 2001, nel basamento della Grand Prix. Poi ci ho messo, gli ho agganciato i radiali nel basamento della Grand Prix, i radiali che poi erano stili di macchina, per esattezza. Mi ho installato 4, lungo un metro e qualche cosa, poi sono arrivato ai 3 metri, cazzo se funzionava. E arrivavo sino a Luigi Vulcan, mi sintesi, sino a Marco Vero. Si basterebbe anche una gamba più vecchia, mi si basterebbe. Se tu gli il piede dall'interno, e ci metti la base della P1800 e la diamo di usi quelli della Grand Prix e sei perfetto, cioè la 50 con 4 radiali e esce bene me. E lo so che se non c'è diario anche quello è vero, perché si trovano le Grand Prix in giro, basta andare qualche palazzo, non padre. E staccarla. Io ero stato fortunato una volta che siamo già un po' mandrache, sono salito in questo palazzo qua, c'era la gran bella lampada, tutta ricostruita completa, con le, addirittura anche con le VG 213, ma ho preso e ho pigliato tutto. Mia sorella, la passeggia per i tetti, è stato cibito, c'era solo, andare dal capocondomino, dice scusi, ma quell'altra che si è abbandonata, la posso staccare, si dice, se la porti via, anche un fagnato che salire sopra e te la stacchi. Figurateci quella volta tutti Antonio, il vero che aveva si è buttata, c'è la Mantova e addirittura c'è anche la Sardaster. Bella tettera, non è mai successo niente a quell'antenna. Bella tettera. Devo salire su e scendere il palo, portate via l'antenna e sei a posto. No, c'è bella tettera quell'antenna. La salvate però, io sono sicuro che la salvi. Ma la Mantova sarà difficile, che la stacchi, che riesci a smollarla. Perché si salvano da sole, già lo so anch'io. Anche se mi dessi di nastro vocalizzante, oh, non è capipiri. Ah, c'è una cosa, una Mantova mi ha buttata, ma mia madre ce l'ha. Devi buscarti i radiali. Chiama la Mantova Turbo, Lucia. Devi buscarti i radiali perché in pratica mi sembra che avevo sparato all'antenna e gli avevo fatto danno al palo. Però l'antenna è nuova, integra. Buttata lì dentro dove c'è la cabina dell'ascensore. E penso già che la via, lui non gli ha sbattuto più niente. C'è anche un'antenna VU. Cioè, stampata. Gli apparecchi non li sta pesando nemmeno. Guarda che ci stavi. Io ho dato anche la diale di dato, mi dava 4, se non mi ricordo mai, dato, 4 diale di dato gli ho dato. Quindi non ho fai altro che staccargli la diale sui, quindi non metterci i fili quelli di 4 diale di Grand Prix. Capito? Senti se ho fatto la matta con l'uovo. Ah, è un poco. Ah, è chiesto, Ah, è poco fottuto. Fottuto, fottuto. E dato è? È bezzucca. Perché dici chi è? Ma però che te l'avevo sentito, ma chitto ma che sono stato ficcato, non è che c'è le orecchie come prima, no, che conoscevo io, come Falcone le portanti, quando mi mettevano la portante, cazzo, c'avevo le orecchie allucinate, tutti i microfoni conosceva, dice questo è la portante di Antonio Riserva, questo è di Alessio. Ma dice quel po' di Antonio Riserva? Dopo cambio destinazione, dai. Destinazione, non sono a casa. No, Arturo. Che un pugno al gioco. Che un pugno al gioco. Sì. Con te partirò. E tu niente. Niente, come si dice? Permessi. Ah, vabbè. Tu pompo, uscite. Io esco ogni giorno. Ma scusa, fa la spesa. Tu vai lì allo spin dove c'è, come si chiama? Via Carlo Felice. Il via Carlo Felice. Che era tutto fatto se che vado lì. Con tutti quelli di cosa? Osi che salgono a farsi la spesa, cosa ridda, Gli fai 8 ore di fila fai. No, via Verona vado io. Mi prendo il tram, scendo Verona, faccio tutto a piedi fino a via Verona. La stessa pratica anche al ritorno. Poi piglio la 25 e salgo direttamente qua. Non è facile spesare qui di fronte, no. Ma fare 4 ore e mezzo di fila non esiste, no. Lì almeno in 10 minuti, nemmeno, 4-5 persone ci sono, anche 6-7. Ma fa veloce, capito? Ah, Gaia che giugotto, ho capito. Sono andato una volta, la settimana scorsa, c'era il mondo, che è Verona. Sono andato in via Carlo Felice, c'era un dirigente lo stesso, però in un'ora me la sono sbrigata. No, io parlo di Verona spesso, parlo con Giovanna. vediamo due carrelli separati, sai che in coppia non si può entrare, la tra famiglia, allora bisogna aprire due carrelli e entrare uno per volta, però poi quelli di lì li conosco tutti, capito? E tappano l'occhio lì. Sì, li conosco tutti i dipendenti, anche che era lì, cazzo, perché tutti i giorni ci andavo quando ero qui in via Carlo Felice. Peccato che si siano spostati di là e avevano lasciato lo spazio a questi guardi che sono venuti. Questi sono proprio caffoni, guarda. Sembra che gli stai toccando lo stipendio. Là. Non posso immaginare. Dai, riprendete voi e ci sentiamo fra un po'. D'accordo, d'accordo. Avanti Antonio. Hai detto, avanti Antonello. Antonello di Ussi. A posto anche voi. Più che giù, più che giù. C'è qualcuno su 10? Attento 10, c'è qualcuno? C'è la comunione, Rome, Antonio Riserva. Antonio Riserva, c'era una distanza senza dirlo ad Antonio, allora dove sta uscendo? Come? Era da tanto tempo che non lo sento ad Antonio, ma anni me. Ogni tanto entra anche lui. Ah, così sono tutti rientrati. Adesso Mario rientra quello che chiamavate voi, come si chiamava? Falcone. Ah, ora sarà un po' difficile. Ma lo vedete in giro? Io lo vedo in Tatani. Ma Luca, come sta uscendo? Dammi una curiosità, perché vedo qualcosa di strano. Come sta arrivando? Sempre bene, se non apri detto. No, non di radio, di segnale sto parlando. Vai! Hola! Vabbè, dammi alle vicette, Roberto, ma andate da via che le sta male. Forse è un'impressione mia, perché non c'è un segnale forte, tutti arrivano a 9 comunque. Guardami, boh, 10 minuti ci sentiamo, arrivo a casa. Sì, dopo, adesso vediamo se entra qualcuno nel frattempo, no, tanto sto facendo cosa qua. Se c'è qualcuno che entra, se no ci sentiamo con te dopo, tengo acceso. Sento le 10, chi vuole entrare? Adesso mi lavo l'aria, ma riquadrato. Noi Antonello, che va andare via, non lo cacchio mi faccio lo Smith. Sono liscio, non c'è niente attaccato, sono l'87. Sta arrivando quasi 9.60, poi mi ha dato un colpo, cioè Luca era 9, si arrivi tu, tonk. Chi c'è? Qualche donata Antonello? C'è Antonello di Ussi, poco fa, è Antonio di Riserva, ma sono spariti tutti e due, e anche Luca, vabbè Luca adesso si sta spostando. Cos'è questo apparato che sta usando? L'Alan 87. Sì, io non ho bulla, già stai andando. Tutto a bomba. Sempre su sei tu, sopra, a parte alta, così sempre lì abiti, con la stessa antenna c'hai Antonella. Sempre la Mantova. Poi c'è anche un'altra antenna, ma cos'è? Una per le V è quella, per le U. U e U. E poi c'è la discola per la frequenza HF, eccetera, eccetera. Riesce a ricevere con la discona sulle le HF? Sì, riceve bene. E io adesso appena c'ho tempo, io devo mettere una di quelle antenne, non so se si chiama VDK31, un nome così già, che me l'aveva data Salvatore Maestrale, e 9 metri di antenna, mi pare fa 4 bande, una cosa del genere, una verticale. Che cazzo 9 metri di antenna? Ti sento, ma cosa hai detto Antonè? Ho detto 9 metri di antenna, di sfido. Non ho capito, no, ho detto, quando c'ho tempo, devo mettere una verticale, che ce l'ho tanti anni, me l'ha data Salvatore, nuova, l'aveva piazzata una volta appena la smontata, Salvatore Maestrale, tu ricordi, è un'antenna per gli HF, mi pare fa 4 bande, non lo so, mi sembra si chiami VK31, una cosa del genere. Ah, la qualche banda verticale, senti, le conosco come antenne. Perché mettere filari, l'ho chiesto anche a Claudio, ma visto che c'ho questa, così non mi mattano la testa a piazzare, spazio già ne ho per metterla una filare, però è sempre una cosa, magari funziona da una posizione e dall'altra no, così posso ascoltare anche le HF bene, perché quando devo ascoltare devo attaccare la Mantova, ma non è che rende più di tanto la Mantova. Ah, ho messo quella lì, una quasi banda verticale per prima, la filare è un casino, capito? Infatti è troppo direzionale, Mario ti toglie molto QRM, ti pulisce tutto, non ti porta mondetta, però in una direzione Mario va bene, nell'altra direzione non è che funzioni. Beh, già lo credo. E io, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno qua, canale 10, attenzione, compagnia di Antonello e Roberto, avanti che vuole entrare. Ma dei vecchi, che fine hanno fatto per dire Mario Mansell, vabbè Antonio Riserva c'è, ma ce n'hanno tanti di coso, di cibi vecchi, con la scusa adesso che è tutto bloccato, non rientra nessuno. Mario non ha installato più niente, c'è anche una sorta vivendo lì a casa subito, cioè all'ultimo piano, dove c'è la cabina dell'ascensore. Poi gli altri non ho più visto nessuno, né sentito nessuno. O sta usando un media della civiltà, che non lo so. Col telefonino. Un po' di gente ha fatto utilizzando Cibitalk quel sistema lì, anche gente assolutamente incompetente, io vedo ogni tanto ascolto, ma mamma mia, mi metto le mani in testa, ragazzini, gente che si mette a fare discorsi anche di accaparrare gente, attizzare gente, vedi, di tutti i colori ho sentito certe discussioni, sembra diventato un coso di prostituzione per certi versi. E chi è? Chi? Eugenio, cazzo, c'è una voce strana. Ah, sì, tutto impazzato qui. No, ciao Eugenio. No, aspetta, ma mi sembrava una voce di coso, di. Come si chiama? Quello di Capri 2, ho detto, ma strana questo senso. No, no, sono io, che stavo. E dopo mi bari mi hai fatto venire la canabula a me, ma la più tardi me la faccio anche io Nutella brevettata, non altri tipi di cioccolate, solo Nutella. Ma chi me, gli altri, un dirigente compra la cioccolata così, no, gli altri neanche a vedere, solo la Nutella, magari sarà pure tossica, tutto quello che vuoi, però se devo morire muoio col gusto della Nutella. No, adesso la faccio senza di farma, buonasera, buonasera. Ciao Eugenio, vieni scucito, diceva quello. E che olio stanno mettendo? Olio idraulico o olio di coso? Di olio motore 15-40? Di 20-50, quello che monta la mia moto. Sì, cosa volevo dire? Com'è il tempo giù da te? Venta, ce n'è oggi. Sta entrando un po', c'è già messo. Adesso con lavoro vediamo un po'. Comunque, ma al lavoro devi andare. Ah, Gussi, ma ce l'hai nel metro, c'è il baracchino. Non ho capito. Come? Non ho capito. Nel metro di lavoro, tu c'hai la motrice, con la motrice ti lavori tanto, no? Perché attacchi, e là c'è il baracchino. No, ah ok, va bene. Ma la motrice tu con una attacchi tutti i cosi, tutti i rivolti o ne avete diversi? No, li abbiamo diversi. Cioè lavoriamo, lavoro solo io, oggi sì, perché è domenica. Sono per l'altro costruire una galla, quindi sono solo io. Ma di solito in settimana siamo in quattro. Ho capito, no, quello volevo dire, la motrice, l'attacco è standard per tutti i rivolti o cambi? No, è per tutti. Ah, sì, no, perché ne avete una, sembra piccolina, ma ne tira comunque quella. Ma una domanda, scusa Antonio se faccio il monopolio, le consegne, cioè le navi stanno arrivando tranquillamente, le navi merci? Tranquillamente, stiamo sbarcando, la merce sta arrivando, nessun problema. Mentre, ma questa roba, scusa, arriva con le navi della Tirrenia e della Grimaldi o con altre navi particolari? La volontà ci arriva Tirrenia, Grimaldi, Gruppo Lendi, niente, con loro, con i container, con i rivolti, niente. Comunque ragazzi, per voi la merce sta arrivando, la metà sta arrivando, sta viaggiando tutto. Guarda se c'è un container di mascherine e portamelo in officina. Cacchio, una vagogna, ancora non abbiamo visto le mascherine, è una cosa assurda. Ma dove cacchio stanno andando? Dice quel guasto del ministro, ne abbiamo ordinato 100 milioni e più altri 80 milioni. E grazie da quegli queste mascherine. Ma grazie a quello che sta sfogliando. E Ma li hai visto quello di Bonolva? Ti metti le mani in testa, cioè presente un pezzo di Scottex rettangolare, uguale, tutti buoni, un pezzo di Scottex con un coso, ma il tessuto, vabbè, diverso, con un coso, con un elastico, sono ridicole, rettangolari, cioè non ti coprono bene la faccia, uno schifo, li ha fatti un'amica mia, tu devi vedere come li ha fatte lei, con le cose che usano per gli anziani, come si chiamano quando li metti sotto il lenzuolo, quelle, adesso non mi viene mai il nome, non mi ricordo, comunque lei le prende, le cuce, le ritaglia, ci mette gli elastici, quelli per le mutande li ha comprati a metà, ma tu devi vedere, li fa le pieghe in modo che sono come quelle dei chirurghi, ma tu non te ne accorgi che è una mascherina fatta diversa. Non mi veniva la parola, le traverse, le ha tagliate a misura, le ha fatto di due misure diverse, ti copre oltre il naso, oltre la punta del naso, gli ha fatto questa crespatura in modo che ti risulti bella aderente, due elastici, e tu devi vedere come funziona questa roba, me ne ha portato una diecina, le date un po' in officina, ma la cosa vergognosa, ma ti mai devo bambina io la mascherina, e non me la dai tu, cazzo, non mi permetti di comprarla. Dice, c'era un amico, mi ha detto che arrivavano venerdì da fuori, una parafarmacia, già te le metto a parte e non gliene hanno mandato, cioè forse arrivano questa settimana. Aspetta che da Antonello, che lui magari è più pratico. Antonello, niente ne sai tu di mascherine. Di qua sotto le ha terminate, e sono arrivato l'altro giorno e già terminate le mascherine, allora stanno andando. Così un'altra farmacia in mezz'ora dice le ha vendute tutte, ma che cazzo? Perché comprano se le vendono, non sono scemi, no? Sono come i fiori, quando vai a Camposanto, tu compri i fiori, li metti al defunto, passano uno stronzo che toglie i fiori e dopo le togli gli stessi fiori tu e te li togli fuori, rivendendo il doppio. Sì, già lo so, è successo anche alla cosa di mia mamma, ne avevano tutti, chissà che se ne era pigliati, oppure trovi qualche tussico, se li prende e se li vende. Dillo a me che io ho mia figlia a Porto Torres, 25 giorni giù. Col fidanzato, a casa del fidanzato, dai genitori, sa, ma saliva sempre da me, almeno due volte alla settimana, a fine settimana salivano qua col fidanzato, fine settimana, il weekend lo facevano qua da me e poi scendevano, perché salivano poi a studiare tutti e due, ma cacchio, stiamo parlando di sarà più di 25 giorni che non sa. Io mia madre, non lo so, ma tua madre dove è? Portato? Vabbè, cazzo, se ti... naturalmente devi stare attento, se riesci a evitare è meglio, però tenendoti a distanza, salutandola, il coso, ve lo permetto, ti fa la dichiarazione. No, non ci vado io, sono troppo a contatto, troppa gente, troppo a casino, anche stamattina, gli sbagli, problema. E oggi, ma sta arrivando anche gente perché nella nave? No. No, ma dico passeggeri perché stanno arrivando. Allora la ragione di Zendi, i porti bloccati, ma che cazzo di balle racconti? Ma ci vediamo, ma che non stavo più arrivando 500 persone alla volta, però quelle 200-300 persone stanno arrivando. Ma scusa un attimino, ma queste persone che stanno arrivando sono i camionisti, gli autisti dei camion o sono persone di passaggio? No, lascia stare, gli autisti del camion è una cosa, lascia stare. Scusa, da dove vengono questi? Sì, no, ma a parte da Genova, non penso siano tutti i genovesi quelli che vengono. No, non sono tutti genovesi. Sì, ma dico, possono essere milanesi, torinesi, bresciani, bergamaschi, perché se parti per imbarcarti a Genova possono essere di qualunque parte di quelle zone lì, certo non ne salgono a Roma per imbarcarsi a Genova. E quindi vengono queste persone. Cioè non c'è un controllo, polizia, non li fa un controllo. Allora, la polizia c'è, però ti fa il permesso di sul momento, quindi no, tutti la controllano la temperatura, a tutti quelli che arrivano. Di vagoni, bobo. Ma vengono tutte le persone, devono venire con le mascherine in mocca, se no non le fanno scendere. No, e anche alle volte sono toccate dietro la mascherina. Non capisco, controllano la temperatura e poi lasciano andare, se fanno il permesso di velocità, lasciano andare. Boh, che strano, cazzo. Ma cosa sono, dei trasfertisti sardi o anche continentali proprio che vengono a farsi un giro? Molti sono, molti si parcano la famiglia, molti hanno la seconda casa qua, sembrano le luci qua. Ok, vai Antonio, riprendi tu, scusa per il monopolio. Buona parte sbarcare io. E perché ho parlato che siamo in queste condizioni a Sassari. Siamo già 467 se non mi ricordo male. Vabbè, che a Sassari è tutta una situazione particolare per i medici, che è successo qua c'è all'ospedale. Se no a casa Serena. Cuglia. A casa Serena se ne sono fuggiti gli infermieri, hanno lasciato i pazienti abbandonati perché non volevano contagiarsi, anche se sicuramente qualcuno se l'avrà presa, si sarà contagiato. Hanno voluto cercare, hanno mandato un amico il messaggio, gli infermieri volontari perché non c'era nessuno che accudiva gli anziani, chissà quanto nei muri ne aveva. Beh, senta, Antonio. Ti ho detto, ce ne sono mi sembra 67 positivi lì a casa Serena, senza contare lì a San Nicola. Sì, perché magari la prendono per una febbre, come ti dicevano, no, una leggera influenza, la via busto di fuoco a tutti quei medici e a quegli imbecilli politici, che è poco più di un'influenza. Cata, c'era oggi un professore, un medico militare, che questo ha fatto, è andato anche all'estero per fare le cose, stava parlando, ma cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? Questo è andato in pensione, era quello che istruiva per fare le cose nucleari, batteriologici dell'esercito, nome con mi ha presentato tutto quanto e ha detto un po' di verità, ma cosa stiamo dicendo? Poi con sto cacchio delle mascherine a cosa servono? Quella mascherina la tocchi, la prendi, te la passi, te la rimetti, dice non serve a niente, è una cosa inutile, bisogna tamponare, fare tamponi a tutti, così risolvi il problema. Una volta fatti i tamponi a tutti sai chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Allora Antone, tu ce l'hai, oppure io ce l'ho e tu non ce l'hai. Io me ne vado in giro a prendere il pane, tutte le mattine vado a prendere il pane, mi alzo la mattina presto a prendere il pane e lo porto a mio padre. Io sono sicuro di non averne dentro di me perché non ho i sintomi, invece magari ce l'ho, ando e contagio a Ghiddu. Poi l'altro che magari è sano e contagio, è tutta una cosa alla catena, e c'ho la mascherina però contagio tutti i ganti. Allora, se invece tu a me mi fai il tampone e mi dicono no, tu non hai niente, puoi andare, mentre a te che ce l'hai tu fai, ma di no, non ti muovi da qua e ti mettiamo in quarantena, o ti rimani in questo posto dove non c'è nessuno a casa tua, oppure ti metto in un centro di raccolta di questi contagiati. Solo così risolvi il problema. In Corea e Giappone hanno risolto il problema, hanno fatto a tutta la popolazione, la gente continua a uscire, continua a lavorare, chi è infetto lo mettono in quarantena, non tutti o nessuno, in questo caso siamo tutti bloccati, gente anche che è sana, e magari ce n'è uno dentro casa che è malato e ti contagi. Ecco. E infatti, è così. È inutile raccontare balle, tutte le balle che stanno sparando, cazzo, è una cosa allucinante. Tutto pubblicità, politica e bu. Uno si sconda con l'altro. Ok, oggi riprendi. C'è problemi, che te la c'è la vado a c'hai? No, non è difficoltà, è difficoltà. Ah, perché è saltata condensa dentro quelle, dove c'è la bobina, no? Magari ti entra la condensa, c'è condensa all'interno, quando la bobina, c'è la bobina, quando scalda quella plastica lì che si vede la bobina, e in pratica ti toglie Quel problema, l'umidità che c'è all'interno, magari per quello. A meno che non c'hai problemi radiali, che ti stanno con... che magari ce l'hai appena ossidati, perché il ferro con l'alluminio forma il cancro, capito? E non conduce, quindi quando c'è il tempo non fai altro che salire sopra, togli i radiali, pulisci bene la basetta e poi c'è i fili e ci metti la vasellina, ci metti. Ma tu le stazionarie te le hai mai controllate? Le stazionarie, allora, qua ho il corso. Perché come funziona l'SQR per controllare le stazionarie qua? Ma dove ce l'hai? Esterno? C'è un apparato esterno, un apparato esterno o ce l'hai sul baracchino? Brecco. Registrato un attimo. Ci sarà una posizione in rosso, devi metterlo alla massima coso, prima lo metti alla massima potenza, devi andare a fondo scala, lo regoli, ci sarà un tratto, non lo so come funziona, almeno nel mio, lo regolo in modo che la lancetta arrivasse al massimo, in poi metto posizione in rosso, schiaccio e vedo quanto c'è, ti indico. Calvo dire calibrazione, prima te lo calibri in modo che schiacci la portante e lo fai andare a fondo scala e poi lo giri dall'altra parte in posizione SWR e vedi quanto ti salgono. No, qua la centrobanda normalmente si fa intorno ai 15-16, diciamo preferibilmente nel canale in cui stai parlando, però se te ne vai da 10 a 15 non è che ti cambia molto, ma da 10 a 40 cambia molto perché l'antenna non risuona, cioè più sali di frequenza risuona in un modo diverso. Ok, chi era il break? Avanti. Ciao Roberto, Fabrizio, volevo fare delle prove, siccome ho una settimana il 13 a terra, ho portato sulle antenne, volevo vedere se in confronto a ieri è migliorato il segnale. Sì, a voi Fabri, sei quasi 9.50. Sì, un antennino di macchina sto usando. Sì, a Sassari. Volevo solo sapere se era una... vabbè, il produttore di ieri non c'era per fare un paragone. Volevo vedere un attimino se era migliorato un pochettino il segnale. Va bene. Chi è che c'è oltre il Porto Torres? Ciao Fabrizio, dove t'entri qui sei? Va bene, dai, che mi devo spostare, che devo andare un attimino a fissare dei cavi. Va bene, grazie Roberto, grazie Pomponio, già ci sentiamo dopo magari quando riscendo. Sì, a quando vuoi Fabrizio, sempre ben accetto, dai, vai Eugenio per Fabrizio. Vabbè, 1,5 è ancora tollerabile, dai. E, diciamo, ci sono situazioni che può scendere a mezzo, ma 1,5 non è che perdi più di tanto. Quando inizi a salire a 2, diciamo, devi stare un po' attento. A 3 spegni tutto, se no fai danno. Il rientro di radiofrequenza è troppo alto. Diciamo, 1,5 non è eccellente, il valore ma è abbastanza buono. C'è da dire che magari può essere anche un valore più basso, perché quegli strumentini sono molto fittizi, diciamo, indicativi, soltanto per darti un'indicazione così generale. Bisogna fare delle prove con degli strumenti un po' più affidabili, con una squadra graduata un po' più grande. Io ce l'ho sempre esterno l'accordatore, così vedo sia potenza. In questo momento io ho 1,1, 1,2 di stazionarie, potenza esterna e radiata più le stazionarie, me lo dice in diretta. Poi c'ho quello dell'apparato, che la scala funziona lo stesso, di lì neanche si muove la lancetta. Oltre che l'antenna, se vuoi un consiglio da amico, fai bene bene le connessioni, usa un cavo buono. Quanti metri di antenna, di cavo c'hai, di lunghezza? Guarda, se vuoi un consiglio, vuoi fare una cosa definitiva, usa il cavo grosso. Tu sicuramente stai usando l'RG58, quello sottile, o sbaglio? Sì, l'RG58. Allora, quello di Pelletta tu ti dà un po' di perdita, va bene, 10 metri la perdita è irrisoria, poco, però succede che la carta è troppo sottile, hai detto tu bene la stessa cosa poco fa, quando si bagna un pochettino, magari l'umidità, l'irradiazione non è, il rendimento del cavo non è come utilizzare un cavo grosso. Se vuoi un consiglio, usa un cavo grosso con una bella schermatura, una bella calza, e risolvi tanti problemi, non ti dà disturbo, nel senso il cavo prima di tutto è protetto molto meglio, perché può essere che tu c'è anche il cavo, se il cavo c'è un po' di tempo, si è seccato l'irrivestimento, l'isolamento con lo nero, la guaina nera si può anche spaccare. Io ho preso tanti anni fa, nel 2004, avevo preso il cavo, non dico che sia il migliore in assoluto perché ci sono cavi superiori, però l'RG213 norme militare che ha un isolamento esterno, la guaina molto grossa e rinforzata, più c'è la guaina di schermatura, lo stesso, bella grossa, bella piena, e più c'è il centrale bello grosso. È un cavo un po' rigido, nel senso è il doppio di dimensioni rispetto all'RG58, però col cavo tu ti renderai conto, io ho 40 metri di calata e se uso il cavo RG58 perdo parecchio, poi non serve a nulla, nel senso va bene per fare i collegamenti da un baracchino a un finale, un amplificatore, cose del genere, però se devi fare una calata fatela, beh, spendi una volta solo e ce l'hai definitivo, i connettori falli belli, poi prima di infilare l'antenna li metti un po' di grasso di vasellina, chiusi bene e stai andando alla grande. Guarda, meno curvo e fai è meglio, se riesci ad andare diretto pulito è meglio, magari proteggilo vicino al coso, lo fascetti nel palo dell'antenna, vedi se riesci a fascettarlo meno, in modo che non ci siano sfregamenti e cose del genere, senza stringerlo troppo, perché un po' di niente, il film è troppo lungo, vabbè con le leggi 213 già non li fa niente, ma col 58 quando lo stringi, lo schiacci la calza, non funziona bene, è meglio sempre avere un bel cavo rigido, lo fai scendere perfettamente, li metti le fascettine in plastica, con rugato lo puoi mettere se ci metti i piedi in terra, per dire se c'è un terrazzino, anche io da una parte dove c'è le antenne quelle grosse, quelle parabole, quelle grandi, di lì purtroppo di lì passano tanti cavi, c'erano la marea di cavi perché c'è il motore, c'è il polarizzatore, c'è un sacco di roba, ho dovuto metterli perché di lì calpesti, ci metti i piedi sopra, ho dovuto mettere quel corrugato antimartello grosso, se no non c'è bisogno, lo puoi lasciare anche normale. Fabrizio ha salutato, sta facendo le prove, c'è Antonello, avanti Antonello. Sì, io Fabrizio sento sopra il pezzo, sistemassi l'antenna. C'è un po' di cosa, se non la vedo da qua a casa l'antenna sua. Cosa hai detto Antonello? C'è? Nebbia, un po' di nebbia c'è. Non vedo l'antenna di Fabrizio, se non io a casa qui la vedo benissimo con l'antenna. Aspetta, ma un lavoro ha fatto Fabrizio, hai visto? Con la carrello, con l'antenna, quel traliccio, tutto fatto da lui, soldato, spettacolare. Vabbè, ma Fabrizio c'ha attrezzatura, sicuramente ci avrà qualche aiutino, dai Fabrizio, se vedi il traliccio di Fabrizio ti metti le mani in testa, le antenne che c'ha, ma c'ha antenne di 15 metri di apertura. Poi non lo so se stava effettivamente utilizzando l'antenna di macchina a vigile di bocco, troppo forte, stava arrivando a 9,45 qua da me, figurati. Non è che siamo attaccati, ma non siamo neanche, cioè diciamo non siamo neanche troppo lontani, ma non siamo neanche troppo attaccati. Qua i segnali più forti c'è la Claudio 9,60, Antonello 9,50 con i picchi a 55 e poi c'è Fabrizio, sono segnaloni. E Fabrizio qua in linea d'aria da me sarà, io penso un, non dico 2 km, ma 1 km. Ma fai a meno che 60, o no? Vabbè, dipende dagli smitter che c'hai. Questa arriva a 9,60 e più va oltre 9,60. I picchi di nuovo scala arriva un pochettino di più. No, vabbè, non pensa nulla. Quello di coso stamattina mi ha detto che aveva fatto 3 il segnale e l'altro 7. Il fondo gli ha detto guarda che c'è qualche problema sullo smitter, cazzo. No, se c'è questi problemi con la temperatura probabilmente la mattina presto c'è umidità, poi ha scaldato e migliora un pochettino. Ti ripeto, secondo me è tutto problema di cavo, qualche PL magari leggermente bagnato, perché se non hai la conduzione dei cavi tutto pulito, sì, l'umidità ti può dare delle perdite, ma diciamo già si risolve tutto. Guardando il palo dell'antenna tuo, se metti più c'è sopra l'antenna. Ma c'hai ostacoli intorno all'antenna? C'hai ostacoli? Ehi, ma c'hai messo i tiranti per fissare? Ehi, è appoggiata così a questo? Ma non uscirla, dico, non è che siamo un evolvente la bandiera. No, vabbè, dì a voi, ripeto, quando ti vai a maestrare il greccale, le rate già si intende, un bel. Ma il vento di terra non riguarda di nulla, però i venti da nord fanno male a Porto Torre. Ma cos'è? Il palo telescopico, cosa? Quei pali telescopici di antenne TV stai utilizzando? Ah, tutto un pezzo. Quindi non ci sono problemi, no, perché molti usano cacchio quei pali che non valgono a niente, quelle delle antenne TV, che sono da 1 mm lo spessore, a rubri movente, poi come sali diventano sottili sottili, cacchio salgono anche 8 metri, li vedi, cacchio, ma ho visto dei pali troncati in due. Quando la rifai scendere giù la curiti, così fa. Vabbè, l'importante è quello che sia ancora sta bene, poi se c'è un palo tutto d'un pezzo è meglio ancora, se di quelli tubi d'acqua così. No, meglio la cosa migliore, quelli zingati d'acqua, anche io ho usato, però io parto con un tubo grosso, sino a salire, c'è 9 metri di palo, più c'è l'antenna sopra, ma è un tubo grosso, fatto in officina, telescopico, con i bulloni da 17 inox, tutto fatto, un lavoro di grandissima qualità, proprio per non toccarla più, tutti i lavori, tutte le connessioni, cavi, cavo buono, connettori AFE, no? Tutti saldati, con la vasellina, tutto fatto come doveva essere fatto. I tiranti in acciaio, cavo d'acciaio grosso, con i regolatori tendicavo, le testine fatte in acciaio inox, tutto proprio per non toccarla più l'antenna. Aspetta, se qualcuno è sovramodulato, chi è avanti? Chi è avanti? Boh, stai parlando o no? Genio! genio, genio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, però bene, allora. Stavo dando uno sguardo allo schema elettrico della radio, che Roberto mi stava dicendo che lo smitter, questo qua, non è, sicuramente non è, è fuori taratura, perché i segnali che mi sta dando sono un po' insomma, un po' corrotti, dai. L'antenna è a posto. No, no, praticamente le misurazioni non sono così fedeli, capito? Stamattina abbiamo fatto una prova volante con Massimiliano e Roberto. Che praticamente lo smitter qua è, non è attendibile, vorrebbe tarato perché non è attendibile. Capito? Vabbè, la base va, rimane così, non me la fotte nulla. Eia, ma è una cosa che mi ha detto anche Marco, che praticamente lo smitter di questa radio non è così preciso, capito? Quindi lo sapevo già da tempo. Quello lo so, ma lui mi ha detto che è proprio una caratteristica di questa radio, capito? Vabbè, è un dettaglio, tra virgolette, non così importante, dai. Oggi a riposo sei, oggi. Bene, vabbè, almeno tu esci a pigliare un po' credo d'aria, pure se sei travagliente, però spezzi un po' la monotonia, dai. Oggi poca propagazione, cazzo, non si sente nessuno da fuori. Ieri ho parlato con Londra, li ho beccati sul 30 mi pare, o sul 32, allora mi lamento. Sono riuscito a entrare, c'era un quasi locale. Sono riuscito a entrare, dai. Venga, piccolino, vabbè, giusto due battute, quel poco inglese che so che mi stavo incartando, comunque già mi hanno sentito, dai. No, si sono messi a ridere quando ho chiamato, Sasso di Sardegna, sono arrivati due risate, poi ti ho detto che il mio inglese era proprio scarsino, si sono fatti due risate. Hanno fatto bene, hanno fatto. Cioè, lascia che Brexit, cioè il Brexit già l'hanno fatto bene, sì. Ciao Massi, e allora? Ma non sei col portatile o con l'antenna di macchina? No, la mia suoneria del telefono, ecco. Presidente, cosa è successo? No, il telefonino, una suoneria unica, inconfondibile, almeno viaggio solo io e non si girano gli altri. Cioè io quando c'erano gli altri telefono ho iniziato la classica suoneria, tutto Zaccari, poi tutto sa, tutto il mondo aveva quella suoneria, alla fine ho detto, buh, ma ne faccio una in modo che non ce l'abbia nessuno. Ma se la gente come si spaventa, cerco di evitarla ovunque, quando sono in posti tipo le porte, in banca, la stacco, perché una volta è successo un guaio in banca, si è messa a suonare, cacca le vedi, guardie giurate, tutti ne sono usciti come se ci fosse una rapina. Sì, l'ho sentito subito. Ciao Massimiliano, Vane, non l'ho sentito ma lo rilancio adesso. Ehi, ciao Robè. Cazzo, mi fa strano sentire chiamare Vane, cazzo. Chiamami Gianni, cazzo, dai che è facile. Vabbè, ti chiamo Gianni, però ti ricordo, ti ripeto, io ti ho sempre conosciuto come Vane. Tutti gli amici miei, gli amici tuoi in comune, mi dice Vane, Lubrofetta. Sempre Vane, adesso da oggi ti chiamo Gianni, dai, facciamo così, dai. O direttamente Lubrofetta, dai. Ok, vai, ci vediamo. Ehi, ciao, oh, Robè. Gappa gappa, meglio mi ascoltate così? Va bene, no, va bene, ok. Cos'è questo? Niente, è sempre la solita radio, però con l'antenna con la mantova qua. Ma poco fa è più basso, come mai? A me mi sentite? Sì, lui, già ti sentiamo. Prima era più basso perché l'ho staccato adesso, avevo l'antennino quello là di stamattina, la di macchina. Ah, ho capito. Ok, no, aspetta, no, è strano, cioè passare da 7 a 9:20 quasi, ho detto, c'è qualche problemino, non è questione di potenza, è solo questione dell'antenna. Infatti, ricordiamoci sempre, non è tanto la potenza che conta, è l'antenna, il guadagno dell'antenna, che è quello che ti dà il tutto. Ok, vai Luca. Ehi, allora, solo mi adesso faccio una prova, che devo provare un rosmetro, dai, per vedere se c'ho stazionarie. Ti faccio lo spezzone, rientro subito. Ciao a tutti comunque. Avanti, riprendi Massimiliano. Ehi, fatelo. Va bene, fatelo quanto ti serve, non guardare lì la misura quella prestabilita che sono tutti tanti incazzati. Che poi magari se quello lo metti, se ti serve più lungo, è un casino. Va bene, dai. Sì, Robè, come dicono, 10 euro per l'antenna e 1 euro per la radio. Dollari, in dollari era prima però, il detto, sì, gli americani che sono sempre stati all'avanguardia, i primi radioamatori sono stati gli americani, parliamo a livello amatoriale, poi i primi sono stati gli italiani come alcuni a livello mondiale, però loro dicevano un dollaro per l'accoso, per il baracchino e 10 dollari per l'antenna. Bene così, allora meglio così, dai. Ok, 1,5 già è sempre un valore tollerabile, però più basso ce l'hai meglio è, tieni presente che c'è sempre una percentuale che viene persa in coso, con qualunque tipo di apparato, qualunque antenna, la cordatura, se riesci ad arrivare a 1,1 è già una cosa eccezionale, perché sempre un po' per del cavo, c'è sempre un po' di rientro, per cui uno sino all'1,5 va bene. Tornando al discorso di quella radio, ce l'avevo uno così che scivolava, capito? Abbiamo tentato un po' con Claudio di portarlo, farlo mettere a posto e non c'è niente da fare, non ci siamo riusciti, no. Né io neanche dove l'abbiamo portato, e quindi l'avevo venduto così usato, cioè proprio per pezzi, no. Anche se era funzionante, e l'avevo dato, era uno Yaesu GX 75, com'era? 75 Siri, no, 75, 475, com'era Robè, quello Yaesu tipo 140? Il 757 dovrebbe essere la memoria. 757, quello GX. Ma vanno meglio i Kenwood su questo tipo di bande, non per dire non ce n'è per nessuno. I Kenwood soprattutto la serie sino ai 440, 140, 430, e poi se prende magari un 850 o un 940, io li ho sentiti, però non sono proprio adatti per andare qua in 27, anche se qualcuno gli ha dato dei microfoni, provare cose. Il tocco sono il 140, il 440 e il 430, e il 680 che sono molto simili. 430 addirittura spinge anche un pochettino di più, però l'inventato il 140 c'ha pochi canali e poi c'ha scomodo da usare perché c'ha quel cacchio di pulsori per la potenza per il microfono, sono una porcheria, troppo sensibili, e poi è molto rumoroso il 140. Il 440 è molto superiore, io preferisco 10.000 volte il 440 perché è molto più silenzioso, una radio un po' più seria, anche se c'ha dei problemini col tempo, qualche problemino lo crea. Il 440 è più robusto, come ha detto Claudio, è un trattore, però c'ha i difetti che è molto rumoroso, in ricezione non è un granché, in trasmissione è uguale al 140, io vi faccio le prove, molte volte neanche me ne accorgerete. Io ce l'avevo, il GX, però non il 2, io ho preso quello lì e gli avevo abbinato l'Adonis, il 908, e poi ho avuto anche il quadribanda, il 767, quella mostruosa, una radio gigante, bellissima. C'è stato un break, avanti? Anche io l'ho sentito, avanti il break. Aspetta, parlando. Ok, Spagna, buona tarde. Operatore Massimiliano, nord Sardegna qua, Sassari, città di Sassari. Sì, corretto. Nord Sardegna, città Sassari. Non lo sentite voi? Sì. Riprendi tu, Roberto. Attento, compagno, se scucci nord Sardegna che va chiamando, operatore Roberto, QSL. Al momento arriva 6-7, adesso si è abbassato, non ho capito quello che ha detto. Comunque dice segnale tuo, mi sembra detto segnale 6, ho capito qualcosa del genere, la radio di 4, ma si vede, a me non ho capito cosa, come mi ha risposto, ha detto sì che mi ascolta, però non ho capito la radio di Santiago. No, a te ha detto al contrario, a me mi ascolta segnale 1 e a te di sì. Eugenio, lo senti tu? Profeto, lo intendi? Negativo, sento solo QRM, boh. Io basso lo sento. Tira il radialino. Io devo fare un lavoretto quando ci sono questi segnali lontani, attaccati sull'altro ricevitore, quello da laboratorio, quello c'ha una ricezione spaventosa. Commutare quello, quando devo ascoltare con quello e trasmetto con l'altro. Fallo questo lavoro. Vai o lui se lo senti, provaci. Sì, ma è basso, Massimilia, capito. Ah, ok. Vabbè, fatto spezzone. No, guarda, se devo avvitare il PL adesso, siccome questo qua ha il cavo è leggermente più grosso del 58, no? E glielo sto adattando. Ah, e li abbassi appena, con una taglierina li abbassi appena la gomma. Infatti sto facendo così. Ma quello già è buono. Cos'è? Quello U, 58 U. Positivo. Quello è buono, va bene. Io ho il 213 doppia calza. Prima avevo l'H1000 e mi si è tutto fatto, il polo centrale tutto nero. E io ho 213 doppia calza lo stesso adesso. E sono buono, intanto mi mette il cavo buono, è inutile. Ci avevo per anni il 58, però con il 213 una cagubba. Così è roba. Io ho 213.000, quello a norme militari, che è un po' più rigido, con l'isolamento più grosso, la guaina esterna grossa, ma è indistruttibile quel cavo. Sarà rigido, un po' duro da sagomare, ma non ne lo rampa manco se si mettono a colpi di mazzetta. Con lo scalpello lo devi tagliare quel cavo. È duro da lavorare perché il centrale tu lo devi vedere, ci vuole la tronchezza per tagliarlo, ma c'ha un isolamento allucinante. Quelli sono buoni. Avanti, lo profe. Eia. Ora è 2, io sono a posto di stazionare, dai, 1 e 2. Ottimo e abbondante. Avanti, Eugenio. Un attimo, adesso sto facendo. Ma si vede? Guardati cosa ti ho mandato. Adesso lo guardo. Quello lì se lo vedi è due volte il 4,40, di due volte di larghezza, di profondità, ce ne stanno due uno dietro l'altro, è uno strumento da laboratorio, un ricevitore da laboratorio da 0,30 e poi da 8,808, tu devi sentire la ricezione di questa cosa, io ho lì come quello, il ricevitore grosso, il 7000, quello base, lì fa 10-0 questa ricezione, i canali, quelli che arrivano, le stazioni che arrivano dall'acustica, che con l'ICR 7000 devo mettere gli attenuatori, coso, lo tiro appena appena fuori, quello lì arriva pulito, perfetto. Ma ascolta, ma questo cos'è? Valvolaro però? No, no, transistor, ma questo è uno strumento laboratorio tedesco, serve per tarare gli apparati quando fai le riparazioni, il coso, cioè hai visto tutte le funzioni che c'ha, oscilloscopio per attaccare, un sacco di cose, ma c'ha un suono, perché poi gli ho messo l'altoparlante effetto, tu devi sentire come suona e soprattutto come riceve, c'ha quattro attenuatori, qui c'è l'amplificatore dell'antenna e tutto regolabile, un sacco di... c'è anche delle funzioni che non so neanche a cosa servono, ci sono delle cose per attaccare strumentazioni, cose del genere, è un generatore di laboratorio, un ricevitore di laboratorio, misurazione, cioè fa le misurazioni delle frequenze da 0 a 30, da 0,15 a 30 e da 87,5 a 108, c'è un bello strumento molto preciso, ma tu vuoi vedere la ricezione, a parte il suono, io l'ho aperto dentro, è una cosa da paura, pesa 20 kg, più di 20 kg non ce la fai a tirarlo così, tutto in alluminio grosso. Era bello, si vede che è un bel aggeggio questo, questo ti per fare, sì ho capito cosa, come è un generatore questo, sì ho capito cosa serve. No, ma è un ricevitore, funziona quando devi fare le tarature, le cose del genere, poi c'ha gli ingressi d'antenna, diversi ingressi d'antenna, è una bella bestia, io voglio fare, siccome questo riceve che è una bomba, proprio silenzioso, non senti disturbi, non senti niente, guardate che c'ha anche amplificatori di alto livello, fare in modo che quando ci sono segnali lontani, questo utilizzarlo in ricezione come ricevitore e poi trasmettere con l'altro apparato. Ma con diverse antenne dici, oppure con la stessa? No, con la stessa antenna. Questo è già collegato, diciamo, io ho il commutatore dell'antenna, però trova il sistema di farlo funzionare come trasmetti, utilizzi il trasmettitore, diciamo, quello, questo qui, e poi in ricezione mollo e commuta l'altro. Ma deve fare sempre tucchelli, però, cioè commutare così, non lo so, deve trovare un sistema per fare una cosa del genere. No, si può fare, c'è gente che lo fa, con un relè come attacchi dietro, nelle uscite del 44, ci sono le uscite a 12 volt, commutare un relè tac che fa partire quell'altro direttamente, con un... ci sono i coso coassiali, i relè coassiali per le antenne, li fa, diciamo, da saperli fare, io non ne ho mai fatto, ma ci sono delle persone, amici che lo sanno fare, lo fanno loro per certi tipi di lavori, ed è una bella bestia quello lì. L'unica cosa mi dirai che siccome non è canalizzato, a parte c'ha una decina di memorie, forse tiene quello lì, è a sintonia continua. Vabbè, lo metti dove ti serve, la prima frutti. Quello magari quando c'è un po' di propagazione, ti cerchi i vari canali dove parli di più, diciamo, va. E via. E poi c'ho quel trio, anche se vabbè quello è macchinoso, quello è quello valvolare, ma sulle bande HF, cazzo è allucinante quello lì, non mi immaginavo perché è molto silenzioso, al contrario di quello che trovate a transistor, ma quelli valvolari non si portano sporcizia a prezzo, c'è una bella, se l'altra notte stavo ascoltando stazioni broadcasting in HF, stazioni dalla Cina, non lo so da dove arrivini, ma tu devi sentire il suono bello, pulito, caldo, c'ha la cordata dell'antenna, quello della trio che ti ho mandato a Claudio le foto, forse l'hai visto anche tu. Quello grigio chiaro? Eia, ma è bello con l'apparato, anche quello è grosso, è più alto di questo che ti ho fatto mandare le foto, però è più un pochettino più stretto, dai, però è sempre una bella bestia di apparato. Vabbè, è bello sì, sono cose belle da avere queste. Anche spazio ci vuole per tenere tutta questa roba. No, vabbè, lo spazio già non ci va. Quando capita già te lo faccio vedere, mi già l'ha visto Claudio, già Naggio di Lucco. Io c'ho, in questo momento mi già stavo contando nel radio cosa c'è nelle varie realtà a Lucca, perché io sono sempre stato appassionato, sopra di ricezione parlo, a trasmissione vado solo dove posso andare, ma radio ne ho una marcata, ci sono tre ripiani di radio qua, anzi uno, due, tre, quattro ripiani di radio ci sono e non ci sono meno di 25 radio una fianca là, ci sono una parete di 4 metri di radio su 4 ripiani, fate un gol. Allora, vediamo un po'. Cos'è il lupo? Allora, aspetta, sto provando. Spero mica lo capisco questo coso. Allora. 1,5 stazionarie. 1,5? Sicuro? Le stai segnando bene? Sì, sì, sei perfetto. No, aspetta. Com'è? Com'è sta? parlando. Ti sei abbassato il segnale, Luca, ma hai cambiato radio. Mi sono abbassato il segnale. Prova. Prova. No, adesso non ho già sentito, mi è assemblato un attimino. Allora. Boh, questa cosa non ha mai battito. Scende e sale. Adesso, so se è sceso. Togliere l'eco quando fai le stazionarie, o lo? È a zero, Massimiliano, non ne ho eco. Ok. Allora, aspetta, scusa, un attimino. Aspetta, vediamo un po'. Uno e tre mi sta segnando. Cosa, Lu? Uno e tre. È buono, uno e tre, cosa vuoi sia? E vabbè, la fiosità. Poi, vabbè, il watt... a scala 200, aspetta. Cosa 200? La scala 20, eh. Vabbè, li supera perché. Oh, un po' di poco. Di poco. Aspetta, adesso me l'aveva era messo male. La scala 20. Che cosa? Ah, ecco. Allora, la scala 20. Dove cavolo è? Su Gugico. Alla scala 20. Non li compro nulla su coso. Che è arrivato qua? C'è su questo canale? Io sono qua posteggiato. E poi oggi è andato via. Ed è arrivata una chiamata al lavoro. Perché c'è che adesso doveva entrare a lavorare. Ok, no, stavo dicendo poco fa raccontando Eugenio che stanno tutti arrivando i camion normalmente, ma il bello dice che stanno arrivando anche 300-400 persone al giorno. Strano. Ci sono un sacco di sardi che stanno tornando a casa, chi è stato licenziato, chi ha perso il lavoro, c'è un sacco di gente che sta tornando qua. Vabbè, ma non è così, cacchio, se sono, vengono da zone pericolose, dice a qualcuno, la maggior parte hanno fatto le cose, la temperatura, poi si è scaricata la batteria della termocamera e non l'hanno più fatto. Vabbè, chiaramente fatto con tutte le dovute precauzioni, giustamente, però non puoi impedire alla gente di tornare a casa, cazzo, è assurdo. Vabbè, ma cacchio, se sei contagiato, cosa fai? Contagi anche qua in Sardegna. Diciamo, è giusto quello che stai dicendo tu, però, cacchio, non è che poi dobbiamo fare il focolaio a Sassari o a Porto Torres di questa gente. Ok, vabbè, vediamo poi se c'è... Ma Antonello Pompugno, andato via. Tu è Eugenio? Ah, sei qua, Eugenio. Ma tu entri alle 7 puntuale o parti alle 7? Devi essere alle 7 operativo o parti alle 7 da casa tua? Quindi tra poco devi andare tu. Infatti ho detto, cazzo, se devi andare alle 6 e mezza, e la cosa è l'elicottero personale, anche se sei vicino. Ah, poco, io pensavo rimanessi tutta la notte lì, figurati. Se la nave arriva puntuale è questo. Se arriva puntuale la nave. Ho detto, se arriva puntuale la nave, ti danno l'otto un quarto. Ah, la vedi tu la nave se arriva. Ah, sì, no, lo sapevo, dai. Quindi, ma come vai tu? Ti vengono a prendere o ci vai tu con la tua macchina o la moto? Ma sempre con l'autocertificazione non ne ha bisogno di autocertificazione? Ok, stavo dicendo, ma c'era Antonello Pompugno o è andato via? Mi sono assentato qualche minuto, avanti Antonello se ci sei. Ok, allora tocca a Gianni Rubrofetta, non più Vanni, dai. Gianni Rubrofetta avanti. Ehi, E beh, lui, hai bucato bene con il cronometro, o ti stai ancora zuffando? Vai, Massimiliano, allora. Finché non lo capisce, è una cazzata usarlo quello, quella. C'è tutto scritto. Io ne ho uno, o ce l'ho, non mi ricordo se l'ho dato a qualcuno, uno di quelli, riconosci Massimiliano, quei rosmetri con l'antennina? Sì. E quelli li puoi provare anche da fuori, dall'esterno. Lo so, ma non sono molto affidabili però. No, me l'hanno dato una volta, avevo preso un blocco di roba, di radio, baracchini, queste cose, ce n'erano due di quelli. Uno così e uno di un altro tipo. Io ho diversi di rosmetri. E quello me lo sono tenuto da parte perché era particolare. Non l'ho mai utilizzato, per dire, non ho mai fatto la prova. Però l'avevo. Perché ero 3 o 4 di rosmetri. Ma io uso il Daiwa, il CN801 HP3, in genere uso sempre quello da incrociati. Sì, bello strumento. No, io ho da tanti anni ho quello, il TM1000 della ZG, non dico che sia niente di particolare, ma diciamo un'indicazione abbastanza credibile te la dà, magari la potenza te ne indica qualcosina di più, però il coso, il rosmetro, le stazionarie sono abbastanza precise perché l'ho confrontato con strumenti molto più affidabili. Accorda abbastanza bene, non posso dire niente, è molto sensibile l'accordatura, però diciamo va benino, dai, non dico che sia un apparato eccellente, ma sufficientemente buono. Ecco, avanti. Buonasera per tutti, dai, Costanzo da questa. Costanzo Roberto da questa parte, buonasera, c'è Massimiliano, c'è Eugenio ancora per un pochettino, poi c'è Luca in prova. Costanzo, non so se ci siamo mai sentiti, comunque se è la prima volta ben sentito, avanti di nuovo. Sì, positivo, dai, con te sicuramente è la prima volta che ci siamo sentiti. Ciao Massi, ciao Eugenio, ciao Luca, ciao a tutti. Oi, Costanzo Straniero, buonasera, ben entrato dopo la marea. Beh signori, allora cosa state combinando? Sì, cosa stiamo combinando? Stiamo facendo un giro di baracchini o Costanzo. Stiamo ammazzando un po' il tempo, tanto questa lampada in casa, vabbè, a me è solo il fine settimana e poi in settimana già sto lavorando. Positivo, no, noi fermi completamente, fino a nuovo ordine non si batte chiodo. Ma l'hanno prolungato questa cosa, ho sentito una cosa del genere, boh. Positivo, l'hanno prolungato, ma finché non sbloccano poi l'arrivo della roba noi non possiamo entrare in opera. È vero. Avanti, Lubrofè. Ehi, ciao Costanzo, buonasera, Gianni Brofetta da questa parte, mi ascolti? Positivo, dai, buonasera anche a te Gianni. Ehi, mi dai un rapporto segnale e poi mi dici dove ti trovi, così giusto per avere un rapportino. 9:10, zona San Camillo. Perfetto, grazie mille, anche tu 9 più e Radio 5. Positivo, dai. Ciao Eugenio, buonasera anche a te, ben ascoltato, dai. Tutto a posto Eugenio, facendo, ogni tanto facciamo qualcosa, poi ci sediamo, poi ne rifacciamo un altro pezzo, poi ci risediamo e così via. Non ci sarà nessun movimento lì, no? Sì, fra un po', stavano a passare tutto l'altro mese che entra, poi non avremo a favità. Vedrai che poi quest'estate se ne stanca a portare le macchine, anzi meglio venire via le macchine. Massimiliano, quest'estate ce ne saranno poche macchine da portare, vai tranquillo. Ma questo è un casino, no, costa a prendere le macchine, voglio tutte igienizzate, così. No, a parte il fatto di essere igienizzate, che non quello è una stupidaggine, nel senso che comunque quando tu imparchi una macchina che fa 10 ore di navigazione si igienizzata da sola, che il virus non c'è più. Il problema è che la gente non penso che quest'anno faccia ferie, più che altro. Cosa è successo? Sì, ma quella è stata una grandissima stupidaggine, Eugenio, perché il virus dopo 10 ore di navigazione lo facciamo anche più la decina. Non è quello il problema, no? I problemi sono altri. Il su quel lato sono d'accordo, ma sul fatto che la macchina quando arrivasse ci fosse ancora il virus è una grandissima cazzata, Eugene, perché il virus dura non più di 48 ore, era fatto 10 ore o 12, quando c'è mare anche 14 ore di navigazione, ma quando arrivano qua non c'era più niente. Fatto sta che comunque, a prescindere da che avete bloccato voi o meno, il problema maggiore è che quest'anno mi sa che figli la gente se ne farà molto poche, con questa crisi che sta uscendo adesso la gente surge, non penso che non spenda, almeno che non sia persone benestanti che magari possa spendere. Oh, scusate, sì, allora Massimiliano, ho fatto le prove, sul 20 c'ho 1,1, dai, e questa radio non dà più di 15 watt. Vabbè, qua ce li ho a 1,2, 1,3, dai. Ciao G. Ciao G, ci sentiamo, vai Roberto. Ciao G, vai, buon lavoro, se ci sei dopo ci sentiamo. Ok, vai Gianni. Ciao Genio. Mi raccomando, non sgommare troppo con la motrice. Ciao G, sgomma, tanto gli non rimbaghito le gomme, sgomma. Ma chi è l'altro, Costanzo lo straniero? Ah, tu li baghi, non ho capito, allora lo sgomma. Chi è l'altro, Costanzo o lo straniero, no? Eia, chi sei, Lucarie, tu sì? Ciao, Costa, e me? Tutto Roger, da quella com'è? Da voi si è passato il suo a fare il robetto e magnato. Già sei farata, dai, no, io non stavo bene, alla fine ieri non ho cenato, anche io ho accusi. Ma oggi ha recuperato, dove, da? Cazzo, oggi ha recuperato, dove? Ma si è già legato burro un bigiattino. E dove sei, Costa? A casa. Arrivi bene, eh? E anche tu arrivi bene qua, comunque. E dove sei tu, Costa? San Camillo. Cazzo, arrivi a bombetta, sembri qua in zona. Niente, dai, Massimiliano, comunque, dai, già qualcosa ho comprato, già va bene, dai. Avanti già. Buonasera a tutti, dai, tu da questa parte. Avanti, Costanzo sta girando. Positivo, dai, buonasera, ben ascoltato da questa, dai. Qua Costanzo, Radio Straniero. Avanti per te, Lu. Ciao già, salutone, avanti Massimo. Ciao già, Massa per la rieco, vai Robe. Ciao Gianni, ben sentito. Vai Gianni, Rubrofè. Ciao Doppio, ben entrato, buonasera anche a te. Dai. Genio è andato via, però dai, già stiamo facendo il salotto, dai, avanti Doppio. Sì, l'ho tutto del tutto, ma ci miriamo perché questo qui era quello dell'apparato, no? Non ci può abbassare, è l'ecco dell'apparato, capito? L'amico Costanzo, da molto c'era la stazione, perché mi sembra che è la prima volta che ci scendiamo, avanti Costanzo di nuovo. Già, no, è da poco, dai, l'ho piazzata un paio di settimane fa, la stiamo provando. Ah, Costanzo ce l'avevo di anni baracchino già, vabbè, lui è camionista. Sì, lo so. E antenna cosa hai messo, Costanzo? Antenna c'ho una Mantova 5. L'hai beccata, dai, io... sì, ci sono, ma è difficile trovarla, ci sono, ma... queste antenne qua, ordinarle è un po' difficile. Io ne ho trovato qualcuna, però qui ho funzionato con un altro tipo di antenna, dai. La Game Master, che è un'antenna praticamente leggerissima, spesso di GMS, una cosa del genere, non dà problemi, flette bene, ho vento rispetto a questo cattivo solare, non dà un pochino, però non ha radiato, quindi ricordarci non mi faccia di più. No, ma comunque esce abbastanza bene. C'è stato un break, comunque Gianni, tu hai detto 160 km orari? Esatto. Cazzo, se arrivi a 200 tieni la rampa in terra allora. Cosa? Ha giudito, se arrivi a 200 tieni la rampa in terra. Sì, ma penso che le butti tutte, anche quelle che resistono 120 km orari le butti in terra. Se arrivi al vento a 200 non ti preoccupa, che c'è una troppa d'aria. Ah, vabbè, avanti break. Sì, buonasera, scusate se interrompo Gianfranco. Portatile, mi dici come sta andando? Saturo. Come segnale basso? Segnale sì, 9, vabbè, lo vedo un po' così, sembra 9,20, dai, 9,15, 9,20. Ok, c'è un'antenna un po' rotta. Ok, grazie, buon proseguimento, ciao, a dopo. Sì, ciao Gianfranco, avanti. Bulldozer, comunque questa radio non dà più di... 10 watt a potenza massima. Solo? Un po' pochi siamo. Costa, salire 45 secondi. Comunque Gianfranco qua era 9 più 40, radio era fattura, un po' cupa. Però va avendo una boccia di vento, parlando, lui. Non mi piace parlare con la radio. C'è rimasto oltre noi Roberto, avanti, con la scena. Già, io stavo provando, facevo una prova, scusatevi, perché sono stato lì a spostarmi, non vedo, purtroppo l'ho messo lì a... come si dice? L'ho messo lì a... affanculo, mi sbiecco e non vedo che puoi spostarmi nei canali. Aspetta, devo fare una provettina veloce, aspetta, così mi dopo dalle balle. No, ma cazzo è adesso? No, così sì. No, vabbè, uno e uno è stazionario. Cazzo, ti mando una foto già. Ma cosa l'hai ordinato nuovo? No. Questo è rosso, metto nuovo, io ho detto. Ah, abbastanza nuovo. Ah, di quelli secondo mano? Sì, ma abbastanza nuovo. No. Ok, vabbè. Ti ha accordato le luci? Io ho l'HP1000 tanto tempo e va benissimo. Quanto le dico, una quarta ora fa l'ho provato con lo strumento anche diverso e dalla stessa stazionale dell'altro. HP1000 però non è accordato, è solo rosso, ma che ho già. Scusate un attimo, riposo. HP1000 è dopo quello che c'è tu uscito. C'è accordatore rospetro ed è anche un po' grande, ma non c'è bisogno. Vale, è successivo di questo, solo di nome, però non ce l'ho presente. No, perché ci sono anche quei solo rosmetro, però non ha l'accordatore. No, era HP1000 uscito dopo del tuo. Capito? È molto giusto. Io a me mi ha sempre dato le stazionali giuste tutto quanto. Quando l'antenna andava male andava con la scala, avevo di se va bene. E poi ho provato anche quella dell'appanato, il baracchino, dalle stesse stazionali, uguali. Riprego. Sì, avanti. Sì, Franco, di nuovo, ho provato a riparare qualcosa, va sempre male? Un po' meglio, il segnale è sempre forte, la radio diciamo ha migliorato tantissimo, probabilmente è il tipo di microfono che ti dà, leggermente ti chiuse un po' le frequenze acute, comunque la radio 5 è buona. Sì, è un po' facile, quelli un po' vecchiotti pure, però sta andando a quanto pare. Ok, quindi era solo un'antenna che era messa troppo vicino a, diciamo, a un albero, dai. Perfetto, vi ringrazio, a dopo. Una domanda da fare, scusa, in che zona siete? Diciamo sotto Monte Oro, praticamente tratto comunale. Cavolo, sta arrivando 9.40, un segnalone allucinante. Forse ci siamo sentiti qualche anno fa, se non sbaglio, possibile. Roberto Quadrato da questa parte comunque. Sì, sì, sicuramente ci siamo sentiti tante volte. Gianfranco, bravo. Sì, ok, ben sentito, dai. Ok, la radio è buona, dai. Il segnale è fortissimo, infatti considerando che sei abbastanza distante, probabilmente le antenne si vedono, perché ce l'ho di fronte a Monte Oro. Lineare saremo a qualche chilometro, però siamo. Sei molto forte il segnale. Ok, vai il profeta, vediamo lui. Qua sei 9 abbondante, Gianfranco. La radio rimane un po' chiusa, vabbè, comunque. Meglio dei passaggi precedenti, dai. Vabbè, purtroppo è un apparecchio da stalla, quindi a batterie, man mano che calano, crea questo effetto. Ma qual è il Midland, quello che ci usava la cavalcata per intenderci? No, è un Barrett uso militare. Qualcuno non è uscito? Io so. Come mai? Perché ho premuto male la portante. Ah, ok, no, infatti ho detto boh. Sapete, più o meno lo stesso segnale tu e Gianni Rubroffetta. Infatti adesso o tu o lui, ho detto uno di voi. Io con Gianni Rubroffetta. Sapete, più o meno lo stesso segnale. Vabbè. Vuol dire che la mia antenna non sta andando bene. No, non sta andando bene. Se 9 più 20, già quasi 9 più 20, cosa vuol dire? E allora Gianni Rubroffetta che sta andando bene. Perché lui c'ha una boomerang, io c'ho un'antenna sul tetto, un'antenna che dovrebbe essere performante, ma ha lo stesso segnale. Per lui arriva forte, cosa stai usando già? Già, io la boomerang c'ho. C'ho la radio, che è liscia, ma e basta. Radio, antenna e microfono, boh. E Ma la radio quanti watt dà? Guarda, questa, questa lo strumento mi dà 8 watt circa. Sì, siamo con gli stessi watt. Se sta andando bene, vuol dire che ce l'hai portato questo Roberto. Guarda, lo strumentino, cioè, vedi? Sì, circa 8 watt sono. Va bene. Più o meno, potenza che c'ho io in questo momento. Avete parlato in due. Vai Gianni, va. Yabu, non so chi è che ha sovramodulato, avanti. Vi siete, forse tu e Gianni, ci avete più o meno lo stesso segnale, uno sopra l'altro. Infatti, mi meraviglia che arrivi così forte, coso, Rubroffetta, cioè, considerando che lui mi ha detto giù alla stazione, o forse sono aperto io per sopra la zona. No, mi va bene con quell'antenna, con la bussola che rende bene, la bussola che rende. Che è avanti? Chi è che sta sovramodulando? Qualcuno ti ha parlato sopra già. Sì, l'avrà fatto involontariamente, avanti. Gianni, ma sei tu? Gianni, dai, Gianni è un bluff. Negativo, io sono qua ascoltando. Era un segnale simile al volto, circa 9 più 20, appena ho visto, ha parlato sopra, però non ho capito chi era. Ok, avanti, se vuoi entrare, se no fai come vuoi, dai, avanti, non lo so, dai. Ok, chi è arrivato quindi? Gianni Rubroffetta, Gianni doppio room, io, poi c'era Luca che è dall'altra parte, Massimiliano che è dall'altra parte, poi chi c'è? Altri? Avanti che vuole entrare. Ciao Walter, ben sentito, dai, ti rilancio a doppio room e poi a Rubroffetta, avanti. Ciao Walter, ciao, sei sempre con un rumorino nel sottofondo, dai. Ben sentito, cordialità anche a te. K. Anche a me mi è sembrato di sentire una cosa del genere, però non ho capito chi è. Sì, ciao Walter, ben sentito, dai, quando vuoi già siamo qua. Vai che Gianni. Dai. Io è una persona presuntuosa e vuole passare a doppio rumbo. KK. Roberto, quanto mi ascolti, guarda, che ho notato il power. Sì, 9.25 adesso, sì. Sei salito da quasi 9.20 a 9.25. Di 5 punti esce solo. Ah, che cosa vuoi dire? Sono pochi, sono più di 5, eri quasi 9.20, adesso sei 9.25 pieno. Sono tanti lei già, no? Non è poco. Di solito ne ha 10 punti esce questo apparito qua. Ok, vediamo se l'amico che diceva Ugribus può entrare, se ne ha voglia, dai, non ho capito chi era, però il segnale era abbastanza forte comunque. Ah, io entra, dai, vediamo un po' se mi grippi, avanti, avanti, cambio. Ma tu hai cambiato apparato adesso già, non è quello di prima? Questo qua, ma è lo stesso. Come lo stesso? Ha cambiato anche la radio adesso. È più forte? Sì. ma prima ero... praticamente avevo 5 watt, adesso ne ho 10. No, non sto parlando di potenza, il segnale era forte anche prima, anche se 6-9, cioè, però la radio mi sembra più forte, come che avevi cambiato microfono. Perché fa questo effetto qua. Vabbè, cerca di capire. Ehi, ok, vabbè, non c'è problema. Abbiamo capito che Gianni Rubroffetta, a me va abituato a chiamarti Gianni, mi trovo male, io ti ho sempre chiamato Vanni. Eia, no, comunque, vabbè, saluto Walter, se ancora l'ascolto, qua lo sento Santiago 3 molto basso con un ronzio, un suono che si porta dietro. E niente, comunque salutoni anche da questa parte, giusto per specificare, cioè levatevi dalla testa che sia stato io poco fa a mettere portanti, no, non sono a quei livelli, diciamo, dai. No, ma non è successo niente, Gianni. Probabilmente ha fatto solo una prova, un grebo e buco, solo così, non è che l'ha fatta apposta, nel senso, è durato un secondo, non può succedere, dai. A Ciavari ci faccio un salto adesso, grazie per l'informazione. Aspetta che ci spostiamo, 27465, vediamo un attimo. Dai, dai, proviamo ad andare, dai. C'è qualcuno ancora? C'è qualcuno su 10 è rimasto? Ora, ora. Attento 10, c'è qualcuno? Ora. Doppio rullo, ascoltate, cambi attenzione, binario 10. Beh, qualcuno su 10? Ora? 10? Avanti, Roberto. Ebbene, lì dove sono? Non lo so dove sono, io non li ho trovati. Vabbè, su 45 c'era Luca e Massimiliano, c'è un segnalone, ci sono tutti dall'Italia, mentre sul canale più bassi c'erano spagnoli, adesso stavo parlando con uno spagnolo, arrivava anche abbastanza forte, però si sovrapponevano uno con l'altro, non riuscivi a capire niente, perché uno parlava sopra l'altro. Ok, e il profeta che fine ha fatto? A predicare. Perci tutti, come mi ha detto che erano là, sono tutti scappati sul 45, però io non li sento più, non riesco a trovare. Eia. Ok, non lo so, da Claudio stasera, forse era, ah vabbè, che oggi forse ci aveva ospiti giù alla casa nuova. Sai che vado sul 45 a vedere se li sento. Dai, io rimango qua, faccio un giretto, poi sennò torna sul 10. C'è qualcuno sul 10? CQ canale 10, c'è qualcuno? Attenzione 10, cambio.